Sostengo il mimetismo più assoluto incontrastato, come un'arma di difesa necessaria in questo stato di apparenza insostenibile, aggrappato a un'ambizione irraggiungibile, ma afflitto da un bipolarismo imprescindibile. L'inverosimile è il tuo credo, la tua confessione, il mio alter ego, un verme in un cadavere in putrefazione. Perdo la percezione di ciò che mi attorni, perdo metri, fiato e voglia. C'è chi mi asseconda, muoia in me l'angoscia, mi nasconde in un sorriso. Metti due cubetti nel bicchiere che ti spalmo sopra il viso. Camaleontico, cambio colore, così se sfioro la tua faccia di merda sembro marrone. Fanculo ogni fottuta religione, che bella scusa per sfogare ogni tua singola pulsione. Ma nel nome del Signore ti decimo la famiglia, per marcare il territorio il tuo confine si assottiglia. E non mi sbriglia questa situazione da invasati, tutti i lati del mio cubo personale allontanati, cancellati, interessati alla mia banca dati. Ricordi, mangiavi pasta asciutta come un film di Alberto Sordi. Ora rimani con le pezze al culo, piagnucolando, restando rettile da sempre più insensibile, fragile, blando, allontanando chi invece mi sta aiutando. Rimango un cumulo di cenere nel fango. Sostengo il mimetismo più assoluto incontrastato, come un'arma di difesa necessaria in questo stato. Variopinto mi distingo fino a quando non mi estingo. Riago mitolo la lingua in un fottuto cunnilingua. Trapposo una moneta sulla fronte per Caronte, passo dopo passo, camaleonte. Ti appoggio due monete sopra gli occhi per Caronte, passo dopo passo, camaleonte. Se va per la sua strada.